Topolino e il cavallino di legno. Con la strega in groppa, il cavallino di legno volava alto nel cielo notturno. «Ancora più in alto!» strideva la strega. Si innalzarono sopra la montagna tempestosa, finché il cavallino riuscì a distinguere il cerchio magico, che la notte splendeva di un fuoco che di giorno era completamente invisibile. Era uno spettacolo bello ma terrificante, perché voleva dire che lui e Gobbolino non sarebbero mai potuti fuggire dalla strega. La loro unica speranza era riposta nel prete che era in cammino verso la montagna. Solo con la sua benedizione sarebbero riusciti a rompere l'incantesimo. Il cavallino di legno cominciava a sentirsi molto stanco, ma la strega non volle saperne di fermarsi fino ai primi raggi del sole. Infine, con una picchiata da maestro, fece atterrare il cavallino di legno vicino alla caverna. «Un cavallo di legno è sempre meglio di una scopa!» ghignò. «Faremo un sacco di bei viaggi insieme!» Si sedette sulla sua seggiola e piombò nel sonno. Il cavallino di legno corse a svegliare Gobbolino. «Vieni! Presto, presto! Il buon prete è in cammino e dobbiamo fermarlo prima che arrivi al cerchio magico!» I due amici corsero giù per la montagna e dopo aver superato l'ultima curva del sentiero videro il prete che si affrettava verso di loro. «No, no!» gridò Gobbolino. «Non ti avvicinare! Verresti incenerito dal cerchio magico!» «Dacci la benedizione! Dacci la benedizione! Servirà a spezzare il cerchio magico!» implorò il cavallino di legno. I pipistrelli che arrivavano in quel momento dalla caverna con i loro acuti stridii coprirono quasi le parole del cavallino. Ma alla fine il prete riuscì a capire cosa volevano e segnandosi mormorò una benedizione. Poi fece un passo avanti e si trovò in mezzo al cerchio magico. Gobbolino e il cavallino non potevano credere ai loro occhi. Il prete stava in mezzo al cerchio magico e non era stato incenerito. Si avvicinarono e scoprirono che anche loro potevano oltrepassarlo senza rimanere bruciati. «Potete attraversare il fuoco della strega perché siete buoni!» spiegarono i pipistrelli. Non c'era tempo da perdere se i tre amici volevano sfuggire alla strega. Stanchi morti, iniziarono la traversata della pianura, senza osare guardarsi indietro finché non raggiunsero la casa del prete. Alla luce del sole che tramontava, videro le lingue di fuoco che circondavano la montagna tempestosa. Gli occhi di Gobbolino si riempirono di lacrime. Non poteva dimenticare che, malgrado i suoi terribili incantesimi, la strega era anche una vecchia donna sola. Era stata abbandonata da tutti, perfino dalla sua gatta Sutica. Dopo una buona nottata di sonno, Gobbolino e il cavallino di legno furono in grado di continuare il loro viaggio verso casa. «Mi sento capace di camminare per 1000 chilometri», disse Gobbolino al buon prete, salutandolo calorosamente. «Sono sicuro che saremo nella foresta prima del tramonto», aggiunse il cavallino di legno scalpitando. La strega ormai sembrava un incubo lontano. E quando attraversarono il fiume, indugiarono a giocare con l'acqua e a rincorrere i topi acquatici. All'improvviso sentirono un suono familiare, i latrati lontani di cani, che si stava avvicinando rapidamente. Si nascosero ansimando fra le rocce e quando il branco stava per stanarli dal loro nascondiglio, saltarono fuori e tornarono indietro per la pianura, correndo a più non posso. Ansando, zoppicando e soffiando senza fermarsi mai a guardare indietro, raggiunsero infine la montagna tempestosa. Non si accorsero che i cani avevano smesso di abbaiare, né che il cerchio magico era sparito. Più morti che vivi, si gettarono dentro la prima caverna che incontrarono e caddero in un sonno agitato. Quando si svegliarono, era già giorno. E i pipistrelli svolazzavano su e giù, come se non ci fosse mai stata una barriera magica. «La strega è spacciata!» raccontarono i pipistrelli. «Alla notizia che anche voi eravate fuggiti, è caduta di botto a terra con un gran grido! E il cerchio magico è sparito!» Gobbo Gobbolino e il cavallino di legno balzarono in piedi e corsero su per la montagna fino alla caverna della strega. Da principio parve loro che la caverna fosse vuota, poi videro qualcosa che si muoveva nell'ombra e un viso lungo e triste che li guardava incredulo. «Siete tornati! Siete tornati!» gridò piangendo. «Ero sicura che mi aveste abbandonato per sempre e stavo morendo di dolore. Ora starò meglio, però mi rimetterò presto!» Gobbolino e il cavallino di legno non le dissero che avevano sempre l'intenzione di tornare a casa, anzi le dettero da mangiare e accesero il fuoco sotto il calderone e verso sera la strega stava già meglio. Aveva appena preso in mano il suo libro degli incantesimi quando si udì un miau all'entrata della caverna. Era Sutica. La strega pianse di gioia e prese Sutica fra le braccia. «Oh, mia cara padrona!» gridò Sutica. «Come sei magra, vecchia e pallida! Non sembri nemmeno una strega!» «Non voglio più essere una strega! Tutto ciò che voglio è un po' di tenerezza e di affetto e una bella caverna calda!» «È proprio quello che voglio anch'io!» disse Sutica. «Ho passato delle ore proprio brutte lontano da qui. Nessuno voleva una gatta di strega come me!» Poi Sutica si voltò verso Gobbolino. «Sei ancora qui, fratello? Ti piace essere un gatto di strega, dopo tutto?» «Questi buoni amici sono tornati qua per vivere con me e io li ricompenserò come meritano!» disse la strega. «Ditemi, amici miei, cosa posso fare per voi?» «Per piacere, signora, vorremmo tornare a casa.» La faccia della strega si rabbuiò, ma Sutica la consolò. «Lasciali andare, perché trattenerli? Io starò sempre con te, padrona, te lo prometto!» «Allora possono andare, ma prima voglio fare un ultimo incantesimo!» insisté. «Grazie lo stesso», disse Gobbolino e si diresse frettolosamente verso l'uscita della caverna. «Dobbiamo iniziare subito il viaggio. Addio, signora! Addio, Sutica!» «Aspettate, aspettate! Voglio solo aiutarvi! Presto, Sutica! Prepara il calderone!» si agitò la strega. A queste parole, Gobbolino e il cavallino di legno schizzarono fuori dalla caverna e si precipitarono giù per il sentiero. «Aspettate!» urlava la strega e dalla soglia della caverna spruzzò qualcosa con un cucchiaio di legno. 1000 gocce colorate come l'arcobaleno schizzarono sulla groppa del cavallino di legno, che si sentì invaso da una straordinaria sensazione. Si sentì alzato in aria. «Gobbolino, sto volando! Presto, presto, saltami in groppa!» lo incitò. Gobbolino saltò velocemente ed entrambi si alzarono in aria, mentre Sutica e la strega li salutavano da lontano. Volarono sopra la chiesa, sopra il fiume e sopra la muta di cani. Poi, proprio quando la magia stava cominciando a perdere il suo effetto, raggiunsero la foresta. Atterrarono su un tappeto di aghi di pino, dove si misero a dormire, vegliati da un gufo. Verso il mattino il gufo li lasciò per andare a portare un messaggio allo zio Poldo, il padrone del cavallino di legno. Poi ne portò un altro alla fattoria dove viveva Gobbolino. Il giorno dopo, mentre i due amici stavano camminando insieme nella foresta, sentirono un suono che riempì i loro cuori di gioia. Era un coro di bambini. Con un grido di felicità, Gobbolino e il cavallino di legno si slanciarono in avanti e andarono a cadere fra le braccia amorose dello zio Poldo e dei bambini della fattoria. Oh, erano finalmente a casa, sani e salvi.